pieni coglioni e la testa ti scoppia. Quando sei stufo di tutto e non sai fare niente, e sei teso, nervoso, con il marcio nel cuore, hai bisogno di un amplificatore. Volume per fare rumore, alza il volume, cerca il rumore. Volume, scegli il rumore.